Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria nell'ultima seduta di borsa prima di Natale. Domani infatti la borsa sarà chiusa, il programma sarà un programma dedicato a temi più generali e di attualità ma non di cronaca. Dicevo, ultima seduta che si avvia, salvo modifiche degli ultimi 20 minuti, a chiudere in positivo, mezzo punto percentuale rialza Milano, e va anche bene perché Parigi e Francoforte sono molto più deboli. Parigi è invariata, Francoforte più 0,2, Londra più 0,6. L'America è incerta, è arrivato un dato sulla vendita di nuove case non bello, per essere buoni, meno 0,1%, Nasdaq più 0,2%. Sui mercati la notizia la sta facendo però il petrolio, che ha superato di nuovo i $76 al barile dopo un dato sulle scorte americane di petrolio risultate inferiori alle attese, tra l'altro appunto $76,2 al barile. L'euro sul dollaro si mantiene a quota 1,43, per cui non è, come 43,25 per la precisione, poco mosso. E tra i titoli segnaliamo Fondiaria più 3,3, Lottomatica più 2,3, Mediolanum più 1,80, Popolare di Milano più 1,6, anche STMicroelectronics guadagna l'1,6%, Luxottica l'1,3%, Tenaris l'1,1, come Intesa San Paolo, un punto percentuale lo guadagna anche il Banco Popolare. Italcementi è il titolo che cede di più, meno 1,2, Geox meno 1,1 dopo il balzo di ieri, Pirelli meno 1%, Finmeccanica meno 0,70, come Ansaldo STS. Da segnalare che il debuttante TBIS guadagna il 25%, in questo momento il miglior titolo. E ancora, per quello che riguarda i titoli migliori, Risanamento più 8,60, Pininfarina più 6,70%, Class più 5,3. I peggiori, Poligrafici Editoriale meno 4,70, Renault meno 3,20%. Ci occuperemo di auto, da un lato le proteste a Pomigliano, la vicenda del piano Fiat che ieri vi abbiamo dato praticamente in diretta mentre uscivano le varie dichiarazioni di Sergio Marchionne dopo l'incontro con il governo e i sindacati. Oggi avremo modo anche di approfondire alcuni aspetti, ma c'è anche una notizia che riguarda in generale il mondo dell'auto, perché praticamente la Ford ha annunciato di aver trovato un accordo con il gruppo cinese Geely su tutti i termini commerciali sostanziali per vendere Volvo. Insomma, la Volvo, storico marchio svedese, già in mano a Ford, andrà ai cinesi. 2 miliardi di dollari per l'acquisto, questo pagherà il gruppo cinese, anche se non c'è al momento alcun dettaglio ufficiale su questo. La Geely è il maggior produttore auto privato della Cina e tra l'altro vorrebbe, grazie all'acquisto di Volvo, sviluppare il cosiddetto know-how, cioè le competenze, le conoscenze per produrre nel mercato occidentale dei veicoli, e quindi sarebbe il primo sbarco vero e proprio in maniera forte e massiccia cinese in Europa e non solo. Altre notizie riguardano il gruppo Lavazza, adesso le racconteremo. Di cosa ci occuperemo? Partiremo con la conferenza stampa del ministro Tremonti, anche la conferenza stampa del ministro Brunetta oggi. Tremonti ha toccato vari temi di questo 2009, dai danni causati dalla crisi sui conti pubblici, 15 miliardi stimati, allo scudo fiscale, più di 80 miliardi, e a vari altri temi relativi alle politiche economiche. Ancora parleremo appunto di Fiat e di Volvo, di Ford e Volvo, e poi vedremo, visto che oggi sono usciti anche dei dati congiunturali, gli ultimi appunto prima della pausa natalizia, difficile che poi il 28 e 29 arrivi qualcosa di grosso, sui consumi, dati della Confcommercio c'è una leggera tenuta, sempre al netto dell'inflazione, al lordo dell'inflazione, in realtà al netto saremo sotto, e comunque si conferma un anno in cui i consumi mediamente sono calati del 2%, e dall'altro però l'ISAE registra un livello di fiducia in risalita, ne ha parlato anche il ministro Tremonti. Questo sarà il tema della seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le notizie in breve. Allora, restiamo, anzi, partiamo come sempre dall'economia internazionale per poi arrivare a quella italiana. In India il ministro delle finanze, Pranab Mukherjee, spero di pronunciarlo in maniera corretta, ha detto che nell'anno fiscale 2009-2010 l'India potrebbe crescere tra il 7,5% e l'8%, non escludendo però una crescita del PIL indiano tra il 9 e il 10%, quindi a dimostrazione che tutta la ripresa, quella che si vede, sta arrivando da Cina, India, Vietnam, sud-est asiatico. Dati americani, dicevo, non belli. Da un lato la spesa personale, quella che indica i consumi privati negli Stati Uniti, ha registrato un rialzo a ottobre dello 0,5%. Inferiore alle previsioni, i redditi anch'essi sono aumentati dello 0,4%, leggermente sotto le previsioni. Però non è questo la vera notizia che arriva dall'America. La vera notizia riguarda la vendita di nuove case, perché è crollata a novembre dopo alcuni dati abbastanza interessanti: meno 11,3% la vendita di case di nuova costruzione negli Stati Uniti, addirittura le previsioni parlavano di un più 1,7%, per cui c'è stata una differenza rispetto alle previsioni di quasi 13 punti percentuali. E anche l'indice della fiducia dei consumatori americani, misurato come sempre da Reuters e dall'Università del Michigan, a dicembre è salito meno delle attese. Ecco perché poi Wall Street, mettendo insieme tutti questi dati, resta molto incerta, perde adesso lo 0,1%. E come annunciavamo, buone invece le notizie sul fronte italiano quanto a fiducia dei consumatori. La misura, come ogni mese, l'ISAE è salita a 113,7 punti. Uno può dire, e vabbè, e la cosa importante è che questo livello è il più elevato dal luglio del 2002. Ad aumentare sono soprattutto le attese per i prossimi mesi, e allo stesso modo anche per quello che riguarda le opinioni sulla propria situazione personale e sulla situazione corrente. Ancora commercio, diciamo, dato dell'Istat, a ottobre invariate le vendite nel mese di ottobre rispetto a settembre, aumentate dello 0,5% rispetto ad ottobre, ma comunque il calo del 2%. Ancora, per quello che riguarda invece sempre l'Italia, Fiat, lo sciopero a Termini Imerese e a Pomigliano, ve l'hanno ampiamente annunciato i nostri GR, sono in sciopero i lavoratori dei due stabilimenti, e una ventina di operai si sono incatenati per protesta davanti al municipio di Pomigliano. Il vescovo di Nola ha annunciato che il giorno di Natale celebrerà la messa nell'aula consigliare di Pomigliano con gli operai. E DR Automobili non è assolutamente interessata a rilevare lo stabilimento produttivo di Termini Imerese e ha dichiarato ufficialmente oggi la propria estraneità a trattative e concertazioni di qualunque genere. Abbiamo dedicato un approfondimento due giorni fa allo shopping, alle fusioni, acquisizioni che sono state fatte in questo anno, nonostante le difficoltà, ma anche comprando delle volte a buoni prezzi. Ebbene, l'ultima, non so se l'ultima dell'anno, ma una delle ultime dell'anno, sicuramente quella annunciata oggi da Lavazza, che ha firmato un contratto preliminare per acquistare Aircom. Praticamente è la società che è leader in Italia nelle bevande calde, nei preparati per sorbetti, granite. Se dico Eraclea, forse alcuni di voi capiscono a cosa sto facendo riferimento: Eraclea, Dulcinea e Whittington. L'operazione costa circa 20 milioni di euro. Smentite invece categoricamente ogni messa in liquidazione delle holding della famiglia Burani, che controlla il 71% di Mariella Burani Fashion Group. Lo si è letto in una nota diffusa e firmata dallo stesso Walter Burani, presidente del gruppo di moda, dopo alcune indiscrezioni che puntavano appunto a ipotizzare una liquidazione delle holding. Sono partiti oggi i lavori del primo cantiere per realizzare il ponte sullo Stretto di Messina. Si tratta della deviazione della linea ferroviaria tirrenica in corrispondenza di Cannitello, per risolvere le interferenze con il futuro cantiere della torre del ponte, il lato Calabria, che costerà 26 milioni di euro e rappresenta la prima fase del più ampio progetto di spostamento a monte della linea ferroviaria Battipaglia-Reggio Calabria. Allora, per quello che riguarda il ponte, siccome c'è un po' di confusione, attualmente sono in corso le attività per arrivare al progetto definitivo, che sarà sottoposto alle approvazioni di legge nella seconda parte del 2010. A giorni dovrebbe iniziare il monitoraggio ambientale, che comprende anche gli studi su acqua, fauna, flora e quant'altro. Autostrade per l'Italia ha sottoscritto un prestito con la Cassa Depositi e Prestiti per 1 miliardo di euro, garantito al 50% dalla SACE, per il finanziamento per ampliare il tratto della A14. La spesa complessiva è di 2,6 miliardi di euro. Ancora due notizie, poi passiamo al tema di apertura. L'alta velocità, secondo il quotidiano francese Le Figaro, Trenitalia, quindi le nostre ferrovie dello Stato, e il gruppo francese Veolia starebbero per sottoscrivere un accordo per lanciare un servizio di treni ad alta velocità in Francia all'inizio del 2012. Tra l'altro Le Figaro apre con questa notizia e ricorda che questo è il frutto della nuova legge francese sulla liberalizzazione del traffico ferroviario internazionale, che dovrebbe consentire, visto che qualche resistenza c'è stata da parte francese, a operatori stranieri di far transitare i propri convogli sulla rete ferroviaria francese, a patto che il loro tragitto passi per almeno due stati. Ancora partiamo con la conferenza stampa del ministro Brunetta. Alcuni di voi ci stanno chiedendo degli incentivi auto, di questo ha parlato il ministro Tremonti, lo ascolteremo. Ma partiamo dalla conferenza stampa del ministro Brunetta, che ha detto e ha annunciato che verrà importato un modello per i concorsi puliti. Eh sì, Brunetta ha annunciato che per il 2010 il governo sta definendo un modello per dei concorsi pubblici puliti. Lo sta facendo assieme alla Bocconi e al Formez. Importare dal mondo anglosassone un format di hardware e software che valuti solo il merito. Sentiamo Brunetta. Stiamo definendo un modello per i concorsi pubblici. Vale a dire, stiamo lavorando con Formez e Bocconi per importare dal mondo anglosassone format di hardware e di software per effettuare concorsi pubblici puliti, impossibili da condizionare, dove si premi solo il merito, come avviene nei paesi anglosassoni. Noi tutto questo lo lanceremo a gennaio, chiamiamolo concorsi puliti o premiare il merito, chiamiamolo come vogliamo. Sarà un'offerta che noi faremo a tutte le amministrazioni, dal più piccolo comune al più grande ministero, in cui diremo: volete il format hardware e software? Volete macchinetta, volete l'insieme? Noi lo offriremo e poi sarà l'opinione pubblica a dire che il Comune Tarditali si fa un concorso in casa e non accetta il format concorso pulito. E poi l'incontro con Epifani, l'incontro è andato benissimo, ha detto Brunetta, è stato molto interessante. andato bene, abbiamo raccontato dell'implementazione della 150, gli abbiamo dato il calendario delle fasi di implementazione del rinnovo dei comparti. Voi sapete che i comparti saranno 4, non più 12, 13, e gli abbiamo dato conto di quello che è successo all'Aran, e ho dato la mia piena disponibilità a iniziare la fase di rinnovo contrattuale per il triennio 2010-2011-2012 appena terminate le procedure di implementazione della 150, cioè metà maggio dell'anno prossimo. Ecco, quindi con piena mia volontà di arrivare al tavolo contrattuale nel più breve tempo possibile, perché ho detto a Epifani è nel mio interesse, per implementare al meglio la 150, fare buoni contratti. Comunque è stato un incontro molto interessante, al pari con RDB e con Cosmo. Così ministro Brunetta, diverso il giudizio invece del segretario della CGIL Guglielmo Epifani, che ha detto sì, abbiamo parlato del rinnovo dei contratti per dipendenti pubblici e della situazione dei precari, ma come si sa mancano le risorse e la strada resta in salita. Dicevo che però la notizia più importante, non me ne voglia il ministro Brunetta, di oggi riguarda la conferenza stampa del ministro Tremonti, vari temi toccati. Vari temi toccati di diversa natura, non solo sui conti pubblici ma anche sullo scudo fiscale, sugli incentivi auto, un bilancio anche dell'attività di governo. Conferenza stampa quindi di fine d'anno, e partiamo proprio da questa. Allora, scrivono alcuni ascoltatori al 349-238-6666 perché lei è contrario al ponte. No, adesso di ponte noi parliamo, ponte sullo stretto immagino, non al ponte delle festività. Di ponte noi parliamo, ho avuto ospiti a favore e ospiti contrari, abbiamo solo fatto notare che forse tra la banda larga e il ponte sullo stretto ci sembrava più importante trovare i fondi per la banda larga, e che insomma il CIPE ha stabilito come prioritaria quest'opera. Molti non la pensano così, tutto qua. Poi vedremo cosa verrà fatto per la linea ferroviaria, perché è chiaro che risparmiare mezz'ora per poi trovarsi un binario unico tra Messina e Palermo non mi sembra un gran risultato. Ma comunque torneremo a parlare del ponte sullo stretto anche con chi presiede la società del ponte sullo stretto. Oggi veramente è stato un via libera così molto molto formale, aspettiamo che arrivi entro metà 2010 l'approvazione di legge per quello che riguarda il progetto, cioè che venga approvato il progetto definitivo. Allora, il ministro Tremonti sulla crisi della fiducia, ha detto Tremonti che gli italiani hanno ragione ad avere fiducia, commentava anche il dato dell'ISAE, ma ripeto, questo sarà il tema dopo le 18. L'Italia ha dimostrato una forte tenuta di fronte alla crisi. Tremonti ha fatto anche il calcolo di quanto è costato ai conti pubblici questa crisi finanziaria. Ha detto il ministro, infatti, la crisi causa in sé una tassa da 10, forse 15 miliardi di euro, e ci vuole un gran coraggio a dire, come sento da più parti, e qualche suo collega di governo saranno fischiate le orecchie, ha detto Tremonti, ci vuole un bel coraggio a dire che bisogna avere più coraggio a fare una politica di deficit addizionale, cioè aumentare il deficit. Visto che appunto questo è il ragionamento del ministro, già 10-15 miliardi ci è costata di deficit in più questa crisi. E poi la finanziaria, approvata ieri al Senato senza la fiducia, respingendo i 70 emendamenti dell'opposizione. Una finanziaria che a questo punto vale 11 miliardi di euro, ne valeva 3,5 nella prima versione, poi è uscita dalla Camera che ne valeva 9 miliardi per vari emendamenti, è uscita dal Senato che ne vale 11, comunque 11 miliardi di euro, 4 miliardi dove verranno trovati rimodulando la spesa, qui è sempre un po' vago il termine, ma comunque nelle pieghe di bilancio si dice. 3 miliardi e 7 arriveranno dallo scudo fiscale, e quelli, insomma, visto l'andamento dello scudo dovrebbero essere più che certi. 3 miliardi e 100 milioni, lo ricordo, dal trasferimento dall'INPS al tesoro dei fondi del TFR inoptati. E poi Tremonti ha voluto sottolineare che è una finanziaria in cui non ci sono tasse, una finanziaria che vale poco più dell'1% del PIL. Non ci sono tasse, le razionalizzazioni, le riduzioni dei tendenziali di spesa ci sono, ma fondamentalmente l'impianto della manovra è fatto per la prima metà da trasferimenti, da un fondo all'altro. E in questa logica di razionalizzazione, di stabilizzazione, di manutenzione, io credo che siano fondamentali due punti. La sanità, un grosso blocco di norme, riflette l'accordo, il patto con le regioni sulla sanità. E quindi quell'impianto un po' analitico, un po' specifico, che è contenuto nella finanziaria, deriva e dipende dal fatto che l'accordo con le regioni è stato integralmente recepito e consensualmente recepito. Credo che sia fondamentale che un paese abbia stabilizzato il sistema sanitario su un patto triennale. Secondo punto importante, il sociale e il lavoro. Abbiamo prorogato e potenziato il sistema degli ammortizzatori e abbiamo rinnovato gli incentivi ai contratti di produttività. Altri punti sono importanti, per me per esempio è molto importante l'avvio della Banca del Mezzogiorno, poi l'impiego su alcune voci che sono meritevoli del gettito del rimpatrio dello scudo dei capitali, dal 5 per mille alla riduzione o all'aumento dei trasferimenti per l'università, la riduzione dei tagli e aumento dell'università, autotrasporto, manutenzioni, cioè una serie di voci che stanno nella finanziaria come proroga, il potenziamento del credito d'imposta per la ricerca nell'industria e altre voci. E poi le micromisure prese, la cosiddetta legge Mancia, poco più di 100 milioni di euro di microinterventi decisi dal Parlamento, le ha difese. Il ministro Monti ha detto sono in realtà uno strumento di democrazia. Naturalmente tutte le critiche sono utili e devo dire non ipocritamente leggerle ti fa comunque pensare, riflettere nella dialettica. Ma leggere ironia sul fatto che in questa finanziaria poco più di 100 milioni è destinato a micro interventi sul territorio e vuol dire non avere il senso della democrazia. Ed è curioso da parte di voci critiche che chiedono i collegi uninominali. Allora, che ci sia in una manovra finanziaria una quota minima, perché 100-150 milioni su 9 miliardi sono una quota minima, destinata dai parlamentari ai loro territori, è un elemento della democrazia e non è una cosa che deve scandalizzare. Che nel Parlamento italiano ci sia anche questa voce che viene destinata alla cultura, all'ambiente, ai territori, a me non sembra che debba essere ragione di particolare indignazione o ironia. Credo che sia fisiologico, democratico e che sia uno dei punti che qualificano l'attività del Parlamento. Non è che sono parlamentari che si mettono i soldi in tasca. E poi le misure a sostegno delle piccole e medie imprese, ripeto, in conferenza stampa il ministro ha ricordato le notizie più attuali, più recenti, e quindi la legge finanziaria, ma anche i provvedimenti presi nel corso dell'anno. Dicevo, le misure prese a sostenere piccole e medie imprese. Fuori dalla finanziaria, ma di grande, fondamentale, credo, utilità, sia per esempio quanto abbiamo varato la settimana scorsa, il fondo per le piccole e medie imprese, che è fatto dai privati sotto la regia del Tesoro del professor Grilli, ma fondamentalmente è un intervento molto importante per l'economia. Io credo che davvero dobbiamo un po' ormai abituarci a pensare che la finanziaria è una legge di stabilità, di ordine del bilancio pubblico. Poi la manovra economica è un po' un'altra cosa. Noi non ci troveremo qui per discutere della legge di stabilità. Ci troveremo qui per parlare di economia e di provvedimenti sull'economia. Gli incentivi auto, molti di voi ce lo chiedono. Ha detto Tremonti, aspettiamo l'Europa come è sempre stato, per cui nessuna dichiarazione sulla fattibilità e sull'ipotesi di una proroga per gli incentivi auto. Ancora altre dichiarazioni, ricordo, sulle riforme, dopo quell'intervista sul Corriere della Sera in cui il ministro Tremonti ha aperto una stagione di riforme condivise, c'è chi l'ha avuto a chiamare bicamerale, ma comunque non sono temi che riguardano questo programma. Dicevo, la riforma fiscale è una delle riforme fondamentali, e anche, visto che ha parlato di fisco, i dati che stanno arrivando dallo scudo fiscale, quanto a gettito per le casse dello Stato e quanto a rientro di capitali. Ne parleremo dopo il meteo, quanto mai importante in questi giorni, e la pubblicità. Leggo solo un sms ancora sul ponte sullo stretto. Fra il ponte sullo stretto e la banda larga considero prioritario portare l'acqua corrente in tutto il meridione. Sì, abbiamo citato la banda larga perché dentro quel CIPE furono trovati i soldi per il ponte nel comitato interministeriale per la programmazione economica, non per la banda larga. Non erano previsti i soldi per portare l'acqua o per avere l'acqua corrente in tutto il meridione. Lì sappiamo che il problema è di finanziamenti, ma anche di inefficienze, di mafie, di corruzione. Non è solo la mancanza di soldi, abbiamo fatto intere puntate su questo. Però parleremo del ponte, c'è tempo, non lo chiudono, non lo fanno domani. ...17:36 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dicevamo del ministro Tremonti, poi arriviamo alla borsa. Per quello che riguarda le riforme, ripeto, tema già toccato in un'importante intervista, qui in conferenza stampa Tremonti si è limitato a indicare come tra le riforme prioritarie vi sia quella fiscale. Pensiamo, Presidente del Consiglio pensa, è arrivato un po' il momento per guardare nella prospettiva delle riforme. E se uno chiede che riforma è importante, io penso che la riforma fiscale è fondamentale, perché è intorno al rapporto fiscale che ruota il rapporto tra i cittadini e lo Stato, e quindi una parte importante della politica, ruota il rapporto tra l'economia e lo Stato, e quindi un rapporto fondamentale per l'economia. Da noi negli ultimi 20-30 anni è stato meno importante che in altri paesi, perché il rapporto era in qualche modo alterato dal debito pubblico. Le democrazie nascono no taxation without representation. Finita la democrazia del deficit, che in Italia inizia al principio degli anni 70 e finisce al principio degli anni 90, ritorna alla centralità fondamentale del rapporto fiscale. E poi lo scudo, molto dibattuto, molte polemiche sullo scudo. Noi restiamo sui numeri. I rimpatri sono stati di oltre 80 miliardi di euro, per cui Tremonti non ha confermato che sia arrivati ai 100 miliardi, continua a stare prudente e dire oltre 80 miliardi. Sappiamo, basta leggere solo 24 ore di oggi, che la stragrande maggioranza di questi soldi sono arrivati dalla Svizzera. E ancora, per quello che riguarda la proroga concessa fino ad aprile, la proroga era necessaria. I dati non sono ancora specifici. A noi risulta che abbiamo superato l'importo stimato nel corso della finanziaria, che era 80 miliardi di euro, 160 mila miliardi di lire. Rispetto alle esperienze fatte negli altri paesi ancora in corso, noi abbiamo visto un fenomeno di accumulo della domanda, di accumulo dei rimpatri, alla fine, motus in fine velocior, che andava oltre la capacità degli operatori di smaltire le domande. E quindi la proroga è stata in un qualche modo necessaria nel continuo dello strumento. Non è che c'è stato un provvedimento e poi un altro provvedimento. La proroga è stata resa necessaria perché la quantità crescente dei capitali in rimpatrio non trovava risposta da parte degli operatori, che avranno, per effetto della proroga, la capacità di assorbire e di rispondere alle domande che gli vengono da chi vuole rimpatriare i capitali. E poi la Svizzera, la guerra con la Svizzera, o la Svizzera che dichiara guerra all'Italia. Vi ricordate le tensioni di qualche settimana fa tra Italia e Svizzera, o tra Svizzera e Italia, proprio ufficialmente per altri motivi, per i controlli, per le telecamere. In realtà gli svizzeri sono molto, le banche svizzere molto preoccupate, soprattutto in Canton Ticino, di tutti questi soldi che stanno rientrando in Italia. E, beh, Tremonti è tornato sull'impatto dei capitali dalla Svizzera in particolare, e anche sui controlli messi in atto dall'Agenzia delle Entrate alla frontiera, che tanto avevano fatto arrabbiare gli svizzeri. Noi ci siamo incontrati in modo riservato, ma in un luogo ufficiale, a Istanbul con il presidente Merz. Io mi ero impegnato alla riservatezza, ma visto che... E quando il presidente Merz dice che Tremonti insistentemente chiedeva money, è una formula ellittica, io chiedevo I want my money back, che è un po' diverso. Detto questo, credo che il rapporto debba essere e possa essere definito, ma su presupposti per cui il segreto bancario non esiste più, e non c'è una posizione favorevole dell'Italia a una modifica del sistema dell'euro ritenuta. Esiste perché nel 2003 fu introdotto un sistema di euro ritenuta, per cui non era la Svizzera che entrava l'Europa, ma l'Europa che entrava in Svizzera, e fu uno scambio tra la conservazione del segreto e la introduzione di una ritenuta che l'anno prossimo dovrebbe andare al 35%. Se la proposta è abbandoniamo il 35% ma allarghiamo la base, considerando che la base è sistematicamente evasa, perché il gettito che arriva all'Italia da quella fonte è simbolico, beh, non c'è un grande interesse a procedere su quella via. Le posizioni dell'Italia sono nella linea delle posizioni degli altri paesi. Mi risulta che ci siano difficoltà di trattativa anche con la Francia. Malizioso, possiamo dirlo, Ministro, nel raccontare come si sono svolti i colloqui con il Premier svizzero. Il no, lo avete sentito, la proposta svizzera, adesso si entrerebbe nel tecnico, di allargare la base imponibile ma abbassare la cosiddetta euro ritenuta, perché dice Tremonti tanto la base imponibile non la conosciamo, a noi arrivano pochi centinaia di milioni, non mi ricordo, vado a memoria, mi sembra 150 milioni di euro come euro ritenuta, vado però a memoria, ma l'ordine di grandezza è più o meno questo. E per quello che riguarda poi anche, insomma, l'atteggiamento svizzero, Tremonti ha fatto notare, beh, mi sembra che qualche problemuccio ce l'abbia anche con Sarkozy, che ha messo in atto iniziative analoghe, non ha citato, ma lo ricordo io, anche i problemi che la Svizzera UBS ha avuto con il governo americano, si è arrivati a un braccio di ferro risolto proprio in extremis. Va bene, adesso la borsa, mezzo punto percentuale di rialzo nell'ultima seduta pre-natale, Parigi invece più 0,3, Francoforte più 0,2, l'America resta invariata sul Dow Jones, Nasdaq più 0,5, Londra più 0,6%, euro a quota 1,43,2 la borsa. Allora, pre-festive le borse, Leonora Micheli, Radio Corso, sì, esatto. 24 ore. Assolutamente sì, gli scambi sono stati infatti più ridotti del solito, anche i temi di borsa ovviamente hanno latitato. D'altra parte le borse hanno continuato il rally iniziato nei giorni scorsi, si parlava di rally di Natale e fino ad oggi non hanno deluso, peraltro anche nonostante che i dati macroeconomici americani oggi siano risultati deludenti. Eh sì, li abbiamo ricordati, nuove case, crollato l'andamento delle nuove case in America, ma non solo. Infatti dall'America oggi le notizie sono molto molto così grigie, la spesa personale è aumentata meno delle stime e ancora la fiducia dei consumatori americani misurata dall'indice Reuters e Università del Michigan è andato, seppur non di tantissimo, ma insomma sotto tutte le attese. I temi li troviamo con Lumicino. Possiamo partire una volta tanto da una debuttante, una volta anni fa c'era proprio il ballo delle debuttanti in borsa, poi dopo la crisi sono sparite. TBS sceglie l'ultima seduta prima di Natale e gli porta bene il Natale, 3 euro più 20%. Sì, più 20% durante della seduta i titoli sono arrivati a guadagnare oltre il 30%, un esordio assolutamente scoppiettante, chissà che non sia di buon augurio anche alle matricole che stanno bussando alla porta di Piazza Affari per il 2010. E ricordiamo cos'è TBS, perché ce lo chiedono alcuni ascoltatori al 349-238-6666, una società trentina? Sì, no, è Triestina, una società di Trieste che opera nel settore delle tecnologie medicali. E oggi appunto c'è stato il debutto, i soldi che verranno, che sono stati reperiti attraverso la quotazione in borsa, verranno utilizzati per conquistare nuovi paesi, si è parlato anche di Arabia Saudita, Qatar, paesi arabi, dove verranno appunto presentate e portate le nuove tecnologie. E poi in più la società ha detto che si propone di realizzare acquisizioni da circa 13 milioni di euro nel corso del prossimo anno. Comunque ingegneria clinica e informatica, evidentemente chi la conosce la apprezza, più 20%, era un po' che non si vedeva un debutto così. Risanamento più 8,60, ratti più 7,25, vado sui maggiori rialzi in assoluto, Pininfarina più 6,70, il peggior calo è quello di Poligrafici Editoriale, meno 4,7, Società Aeroporto Toscano meno 4,2, Renault meno 3,20, la Sadi meno 3,6%, Telefonica meno 2,5. Andiamo invece sui titoli maggiore capitalizzazione. Allora, Mediaset oggi si è mossa molto, ma questa volta, se ho ben capito, non c'entra tanto l'operazione, o non solo l'operazione Telesinco, ma che cosa? Oggi si è mossa bene tutta la galassia di Fininvest, sì. Definiamola così, cioè il gruppo di titoli formato da Mondadori, Mediolanum e Mediaset. Titoli, società in cui appunto la finanziaria della famiglia Berlusconi ha delle partecipazioni. E infatti è stato formalizzato l'accordo con CIR per la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado che l'obbligava a pagare 750 milioni, e quindi il mercato ha un po' festeggiato premiando e comprando appunto le azioni del gruppo Fininvest. Comunque poi nel dettaglio Mediaset continua a beneficiare anche dell'operazione che hai menzionato tu della scorsa settimana effettuata in Spagna dalla controllata Telecinco, e peraltro gli analisti continuano a rivedere al rialzo le stime, o comunque a rivedere appunto anche le proprie raccomandazioni. E in aggiunta, per quanto riguarda invece Mediolanum, diciamo che è stata premiata anche per la notizia che è stata prorogata di qualche settimana l'obbligo che da parte dell'antitrust, l'obbligo imposto a Mediobanca di cedere l'1,9% del capitale entro fine anno, quindi nelle ultime sedute dell'anno appunto non verranno ceduti i titoli, e la borsa ha un po' festeggiato insieme alle altre notizie. Di nuovo in diretta, allora, Eleonora Micheli, per quello che riguarda invece Geox, abbiamo visto prese di beneficio, ieri il titolo molto era salito ed è infatti oggi quello che perde di più, ma meno 1%, tra il cemento meno 1,5%, nessun effetto positivo, devo dire, su Enel, nonostante Deutsche Bank abbia raccomandato di comprare il titolo. Deutsche Bank, per inciso, fa i report adesso, ma è una delle banche più colpite della crisi finanziaria per gli investimenti fatti in prodotti derivati. Chiudo la parentesi, come al solito, polemica sui report. Fiat. Sì, Fiat oggi non è che ha brillato, ha perso lo 0,58%, ma diciamo che è andata in linea con il settore europeo che è stato abbastanza debole per gran parte della seduta. E questo nonostante appunto ieri la società abbia annunciato un piano di investimenti per 8 miliardi nei prossimi due anni, di cui 2/3 verranno realizzati in Italia. Ma oggi si è trattato comunque di una debolezza, diciamo, generalizzata del settore auto in tutta Europa. E noi restiamo in tema di settore auto. Buona Natale a Eleonora Micheli, a tutti i colleghi di Radio Cori, Sole 24 Ore, e parliamo appunto di Fiat ma anche di Volvo. Eh sì, perché mentre oggi scioperano gli operai di Termini Imerese e di Pomigliano, dopo la presentazione del piano Fiat, molto atteso, l'abbiamo raccontato in diretta praticamente, 20 gli operai incatenati per protesta davanti al municipio di Pomigliano. Nel frattempo si viene a sapere che praticamente la Volvo diventerà cinese. Andiamo con ordine, il piano l'avete letto sui giornali, 8 miliardi di investimenti in Italia, però Termini Imerese non ha speranze di vita, secondo quanto ha raccontato Sergio Marchionne, entro il dicembre 2011 chiuderà. Su Pomigliano invece si potrà arrivare a una soluzione un po' diversa, si vorrebbe far produrre la nuova Panda, occorre però una importante ristrutturazione di un impianto che ha sempre dato problemi alla Fiat, lo dico con la massima tranquillità, e quindi proviamo una sospensione. Marchionne ieri. Stiamo parlando di far salire la produzione in Italia da 650.000 vetture tra 800 e 1 milione fra 2 e 3 anni, quindi un impegno grande per la Fiat, stiamo cercando di rivitalizzare tutta la struttura industriale del paese, impegni per Mirafiori, per Cassino, per Melfi, Pomigliano che avrà finalmente la nuova Panda, quindi il problema è stato risolto strutturalmente. Ma sfortunatamente il risultato di questa analisi è che Termini Imerese non potrà continuare dopo il 2011, quindi l'abbiamo confermato, abbiamo confermato anche l'impegno della Fiat a lavorare con le parti sociali per trovare una soluzione. E poi i 20 operai invece di Pomigliano che si sono incatenati per protestare contro il mancato rinnovo del contratto che è in scadenza tra dicembre e marzo, sono saliti sul tetto del comune, si sono incatenati. Comunque le ragioni della protesta le ha spiegato un operaio precario che sta partecipando alla manifestazione, alla protesta, al microfono del nostro Paolo Piccone. Siamo incatenati fuori al comune di Pomigliano perché vogliamo un tavolo subito con Fiat e Regione, perché siamo esasperati e abbiamo famiglie e non sappiamo dove vivere più. Dal 31 dicembre ci scade anche il contratto e non sappiamo cosa dire ai nostri figli, come sopravvivere e cosa fare. Noi non siamo delinquenti, ma siamo operai e cerchiamo un po' di dignità, perché il lavoro è dignità, ma non è carità. Sempre dal fronte Pomigliano, però soddisfazione comunque per il fatto che, come ha garantito Marchionne ieri, in quello stabilimento si produrrà la nuova Panda. Un altro dipendente della Fiat di Pomigliano, sempre al microfono il nostro Paolo Piccone. Allora, noi nello stabilimento abbiamo accolto molto favorevolmente questa nuova missione produttiva che il signor Marchionne ha deciso di darci. E sicuramente noi operai faremo la nostra parte, spero che anche lo Stato e il governo aiuti la Fiat a fare la sua parte e passeremo un Natale un po' più felici, sereni, e speriamo che inizi tutto il più presto possibile. Finalmente noi tutti abbiamo una nuova prospettiva di lavoro e siamo felici anche per i nostri figli. Così anche loro avranno un futuro e così anche la Fiat e la Fiat di Pomigliano possa ritornare agli splendori di una volta. Andrea Malan, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Andrea, Marchionne è stato molto chiaro ieri, il ministro Scajola però ha detto che il polo industriale di Termini Imerese ha diritto a un futuro, un futuro economico, un futuro industriale. Ha smentito la DR Automobili di essere interessata a arrivare allo stabilimento. Sembrerebbe invece, qui vorrei la tua opinione, che vi siano trattative tra il governo e il gruppo cinese Chery. Beh, questa è una voce che è già uscita nei giorni scorsi. Sì, ma esiste la possibilità, secondo te, concreta che da qua al 2011 vi sia un interesse per lo stabilimento o si va verso un'ipotesi, secondo te, di riconversione industriale, cioè si andrà a fare qualcos'altro, cioè continuerà a fare auto o farà, se possibile, qualcos'altro? Secondo me le voci di un interessamento di gruppi stranieri non sono fondate, nel senso che è probabile come era già successo nel 2002, ricordiamo che Fiat annunciò per la prima volta l'intenzione di chiudere Termini Imerese nel 2002, nel pieno della crisi pre-Marchionne, diciamo. Non ci riuscì, nel senso che l'accordo fu poi raggiunto con il governo, ci fu un piano di esuberi, ma un piano sociale, e quindi Termini è rimasta in vita. Allora, il governatore, allora Cuffaro, parlava di contatti con la Toyota. Adesso spunta la cinese Chery e si è parlato anche di Tata. finora quasi tutti i diciamo gli stranieri tirati in ballo hanno smentito, Ceri ha smentito piuttosto drasticamente. Mm-hmm. Diciamo che è difficile immaginare che in un impianto che dall'azienda che lo ha creato, che l'ha utilizzato per 30 anni, viene ritenuto completamente antieconomico, è difficile immaginare come un'azienda straniera che non ha nessuna esperienza di produzione in Europa possa immaginare di venire a lavorare. È piuttosto, diciamo, una cosa che è un po' contraria al senso economico. I cinesi oltretutto hanno una base produttiva loro enormemente più economica. È vero che, hai detto tu prima, hai citato il caso Volvo, che dovrebbe essere venduta entro qualche mese ai cinesi. Lì si tratta però, diciamo, di un intero marchio, si tratta di un marchio, di una rete di distribuzione, di un marchio tra l'altro di gamma medio-alta, con una posizione che è pure un po' indebolita negli ultimi tempi, ma prestigiosa, con la sua immagine, e che ai cinesi potrebbe far molto comodo, tra l'altro anche sul mercato interno loro. Quindi è un discorso completamente diverso. Secondo me per Termini si andrà di nuovo a dei negoziati ed è probabile che si trovi una soluzione, credo, al di fuori dall'auto. Temo che possa succedere una cosa simile a quella che è successa ad Arese, qua vicino a Milano, cioè una lenta riduzione della produzione, diciamo, nel corso di parecchi anni. Perché adesso si produce ancora la Lancia Y, i dipendenti sono 1350, ma insomma quello è il modello che si produce. Dopo il GR, Andrea, vorrei capire in realtà perché, cercare di capire meglio perché nessun gruppo straniero potrebbe essere interessato a mettere un piede in una produzione come quella di Termini Imerese, nel senso che per la Fiat, poi chiariremo anche quali sono gli altri investimenti in Europa della Fiat, è chiaro che quello è uno stabilimento non produttivo. Potrebbe avere un senso diverso se dovesse sbarcare qualcuno dall'estero e trovare anche delle agevolazioni sul territorio. E poi vorrei invece un tuo commento anche sullo sbarco vero e proprio dei cinesi in Europa, perché insomma comprarsi la Volvo per farne una piattaforma per vendere auto in Occidente e in Europa non è cosa da poco. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Dicevamo con Andrea Malan, al di là della vicenda Termini Imerese, Pomigliano e investimenti Fiat in Italia, oggi la notizia del mondo dell'auto, Andrea, riguarda anche l'accordo per la Volvo, e cioè i cinesi di Geely si comprano la Volvo, 2 miliardi di dollari per l'acquisto da parte della Ford che lo venderà. Allora, volevo capire, non è pensabile veramente che, visto l'interesse per esempio del primo produttore privato cinese per una piattaforma come quella Volvo, qualcuno possa essere interessato a Termini Imerese se non ha ancora messo piede in Europa? Il discorso essenzialmente l'ho già fatto prima per gli ascoltatori, lo sintetizzo. I cinesi oggi comprano un marchio molto forte, comprano dei prodotti e una rete di distribuzione in tutto il mondo. Cosa che non avverrebbe se comprassero lo stabilimento di Termini Imerese. Quindi i cinesi hanno comprato, ma la stessa Tata che ha comprato Jaguar e Land Rover ha fatto esattamente lo stesso ragionamento. Non esiste il caso di un produttore straniero di paesi emergenti che abbia comprato stabilimenti in Occidente, e tra l'altro tutti gli investimenti che sono stati fatti, diciamo, negli ultimi 10-15 anni per produrre auto in Europa sono stati fatti in Europa dell'Est. Non è un caso che proprio in questi giorni la stessa Fiat stia per comprare la Zastava in Serbia, un'azienda con cui la Fiat ha una storica joint venture che era stata poi praticamente distrutta durante la guerra degli anni 90, e per la quale adesso il governo serbo dà naturalmente un corposo incentivo alla Fiat per mettere in piedi lo stabilimento, nel quale la Fiat produrrà probabilmente un'auto a basso costo sul tipo della Dacia per la Renault, che venderà in primo luogo in tutti i paesi dell'est Europa e forse un po' anche in Europa occidentale. Allora chiudiamo su Volvo e cinesi. Da quello che ricordo io, ma tu ne sai molto più di me, è il primo sbarco di questa imponenza, si concludesse positivamente l'operazione, di un produttore cinese in Europa, anche perché appunto Geely è il primo gruppo cinese privato in quanto a produzione di auto. La Volvo era stata messa in vendita dalla Ford circa un anno fa, Dopo che nel 2007 aveva già venduto l'Aston Martin, e appunto, come tu ricordavi, nel 2008 la Jaguar e la Land Rover. Volvo, che fu acquistata, pensate, nel 99 pagandola 6 miliardi e mezzo di dollari di allora, e oggi la viene venduta a 2 miliardi. Secondo te quanto investiranno i cinesi su questo? Perché la dichiarazione è proprio molto molto esplicita, dice: noi vogliamo anche in questo modo entrare nel mercato occidentale delle auto. Sicuramente è il primo caso ed è un test molto importante, nel senso che finora ci sono solo due casi, uno recentissimo, la BAIC di Pechino, che ha comprato alcuni modelli e alcune linee produttive della Saab, ma non il marchio e non l'azienda, e la SAIC di Shanghai, che qualche anno fa ha comprato dal fallimento Rover anche lì i disegni di auto che poi produce in Cina. Quindi è il primo sbarco a pieno titolo dei cinesi. Innanzitutto bisogna vedere se e come i cinesi saranno in grado di gestire un'azienda che a tutta evidenza la Ford in 10 anni non è riuscita a rimettere in piedi in maniera profittevole, anche se per quanto riguarda Ford va detto che il suo è soprattutto un desiderio di liberarsi, diciamo, delle parti più, diciamo, periferiche dell'impero per concentrarsi sul marchio Ford, che è quello su cui la famiglia ha intenzione di scommettere, e finora, visti i risultati dell'ultimo paio d'anni, sta scommettendo con un certo successo. Però per i cinesi, appunto, ripeto, è una sfida fondamentale. Da come andrà per Geely con Volvo, probabilmente anche altre aziende cinesi rifletteranno molto accuratamente se fare grande passo o meno. Domanda che fanno gli ascoltatori, poi ti saluto Andrea, ma è così interessante adesso il mercato europeo dell'auto? Il mercato europeo dell'auto, diciamo che quest'anno ha fatto un po' più di 13 milioni di auto, l'anno prossimo probabilmente ne farà 12, diciamo che attualmente allo stesso livello del mercato americano e del mercato cinese come i tre grandi mercati mondiali, per cui è chiaro che un cinese che è già presente in patria può volere sbarcare in Europa per appunto raddoppiare, diciamo, il proprio mercato potenziale. Ha sicuramente un senso. Chiaro, grazie e buon Natale quindi ad Andrea Malan del Sole 24 Ore. Buon Natale a tutti. E allora dall'auto Fiat e dai problemi purtroppo di Termini Imerese minori di Pomigliano passiamo invece alla fiducia, la fiducia degli italiani. Perché nel mese in cui il dato è di ottobre, però attenzione, l'Istat ci dice che le vendite sono andate leggermente bene, più 0,5% rispetto all'anno prima, ma ripeto, il dato è lordo, è all'ordo, l'inflazione non al netto, e che comunque nel 2009 faremo un meno 2% quanto a vendite nel commercio fisso al dettaglio. C'è qualche segnale positivo, lo dice la stessa Confcommercio, qualcosa si sta muovendo, ma restano grosse difficoltà per le piccole e medie imprese del settore del commercio. Dicevo, in questa giornata l'ISAE, come ogni mese, ha diffuso il dato sulla fiducia dei consumatori a dicembre ed è tornato ai livelli più alti dal luglio del 2002. E subito ha colto la palla al balzo il ministro Tremonti nella conferenza stampa di cui vi abbiamo fatto ascoltare ampi stralci in apertura del programma. Così ha commentato il fatto che gli italiani siano tornati ad avere fiducia, perlomeno così registra l'ISAE. L'Italia ha dimostrato una forte tenuta nella crisi. Sappiamo che ci sono settori, situazioni, famiglie, persone che hanno difficoltà, lo sappiamo, ma il sistema nel suo complesso ha tenuto, tiene e terrà. Questo è merito dei lavoratori, degli imprenditori, delle famiglie, dei comuni, dei cittadini italiani. Gli italiani hanno ragione di avere fiducia nell'Italia, il governo ha fiducia negli italiani e noi pensiamo che gli italiani abbiano ragione per avere fiducia nel governo. Allora, è vero che l'ISAE è un istituto di emanazione governativa, come scrivono maliziosamente alcuni, ma insomma tutti i mesi, e governo di centrodestra e centrosinistra, l'ISAE fa lo stesso lavoro, misura la fiducia dei consumatori da un lato e degli imprenditori dall'altro. Presidente Alberto Maiocchi, buonasera. Buonasera, dottor Barisoni. Presidente dell'ISAE, chiaramente. Allora, un minuto di pazienza per le informazioni per chi è in viaggio e poi parleremo con lei di questa fiducia. Chi continua a scriverci sul ponte, sullo stretto, avete vinto voi. Oggi siamo vicini a Natale, mi arrendo. Avremo fra pochi minuti anche l'amministratore delegato della società Ponte sullo Stretto di Messina, fermo restando che vorrei parlare del ponte quando verrà poi anche approvato il progetto definitivo. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Allora, Presidente Maiocchi, molto bellamente, siamo contenti che la fiducia degli italiani sia cresciuta, ma com'è possibile che sia arrivata ai livelli del 92? No, dunque, innanzitutto no, il dato... Del 2002, mi scusi. Del 2002. Sì, sì, no, ci mancherebbe. Ma io... Cioè, lei come se lo spiega? Perché io capisco che c'è un po' di ripresa, che sì, sì, qualche segnale c'è, ma insomma dire che siamo tornati a livelli di ottimismo del 2002 insomma, mi lascia positivamente sorpreso. Ma io credo appunto l'elemento fondamentale non è il confronto con il passato, ma quello che è successo negli ultimi mesi. Se noi guardiamo il grafico che è pubblicato insieme ai numeri dell'indice di fiducia dei consumatori, vediamo che la tendenza con qualche mese di ricaduta è chiaramente positiva negli ultimi mesi, e questo è legato sia a attese migliori per il futuro da parte dei consumatori, sia alle opinioni sulle posizioni personali. Nello stesso tempo noi mettiamo in evidenza che rimangono ancora pessimisti i consumatori circa la situazione corrente attesa dell'economia nazionale, cioè rimangono dei dubbi sull'andamento dell'economia, anche se qui l'elemento da sottolineare è che le previsioni per quanto riguarda l'andamento della disoccupazione non segnalano ancora una ripresa, ma segnalano perlomeno un arresto della caduta di questo indice molto importante per quanto riguarda l'andamento del mercato del lavoro e quindi anche la situazione delle famiglie e delle imprese. Presidente Maiocchi, come si spiega il fatto che però di fronte a questa fiducia, che appunto come lei ricordava vede migliorare le attese per i prossimi mesi, le opinioni sulla situazione personale e sulla situazione corrente, beh, a fronte di questo dato in realtà il mondo del commercio continua a soffrire, e non poco. Abbiamo visto anche un lunedì bianco negli acquisti, se paragonato a un anno prima. Devo dire che a mio avviso qui l'effetto neve ha bloccato anche un po' i consumi, ma insomma c'era una nota oggi che paragonava addirittura un 20% in meno di consumi natalizi lunedì l'altro ieri. Prego. Sì, dunque certamente la situazione dei consumi interni non segnala ancora una forte ripresa. Se noi guardiamo anche l'andamento dell'industria manifatturiera, noi usciremo il 29 con l'indice di fiducia della manifattura, non abbiamo ancora i dati definitivi, però la tendenza che appare è abbastanza precisa. Migliorano per la manifattura le attese di produzione, si rafforza il portafoglio ordini, soprattutto per quanto riguarda la domanda internazionale. Cioè l'elemento che in questo momento rafforza le imprese italiane è la domanda che proviene dai mercati internazionali più che dal mercato interno, e questo corrisponde agli elementi che noi abbiamo da altri indicatori. L'indice IFO, l'indice tedesco, segnala un notevole miglioramento. I leading indicators dell'OECD segnalano che l'Italia si colloca ai primi posti per quanto riguarda la ripresa insieme alla Francia e ad altri paesi europei, quindi c'è un insieme di fattori positivi che derivano dal fatto che il sistema produttivo risponde positivamente alle sollecitazioni del mercato esterno. Occorre rafforzare e aspettare che ci sia una ripresa anche dei consumi interni. Sì, quindi mi sembra di capire che sono più indicazioni di fiducia che non si trasformano ancora in comportamenti concreti. Comunque grazie, buon Natale anche a lei, buon anno a questo punto a tutto l'ISAE e ai suoi collaboratori. Grazie al presidente dell'ISAE Alberto Maiocchi. Grazie. Volevate il ponte sullo stretto, molti ci hanno scritto solo perché nell'apertura del programma abbiamo ricordato oggi cosa è successo, ossia il primo cantiere per realizzare il ponte sullo stretto di Messina. allora Ponte sia o Fiat Ponte, così agganciamo il tema della prima ora con quello della seconda. Dottor Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Ponte sullo Stretto di Messina, buonasera. Buonasera. Allora, che cosa è partito oggi? Perché voi è una, la deviazione dei lavori per deviare la linea ferroviaria tirrenica, se ho ben capito, a Cannitello, sì, per un totale di 26 milioni di euro. Prego. Esatto. Ma questo è il primo cantiere per la realizzazione del ponte. La realizzazione del ponte, come per tutti quanti i progetti, inizia sempre con risolvendo i problemi delle cosiddette interferenze. E la principale interferenza che c'è per la costruzione della torre del ponte nel lato Calabria è proprio la linea ferroviaria, che deve essere spostata di alcune decine di metri per poter lasciare lo spazio alla costruzione della torre proprio in località Cannitello. È un lavoro che da sempre è programmato nel nostro progetto come primo lavoro da avviare. È un lavoro pure importante, perché sono quasi 30 milioni di investimento da fare in un anno e mezzo. Quindi questo è quello che è accaduto oggi. Che sono partiti i lavori appunto per spostare la linea ferroviaria, visto che lì ci dovrà essere, lo dico in maniera un po' così imprecisa, il pilastro del ponte, della torre, no? Esatto, dovete fare il perfetto. È preciso. Grazie, almeno ogni tanto mi capita. Per quello che riguarda i costi complessivi, alcuni ci scrivono al 349-238-6666, attenzione, il ponte costerà per ora 6 miliardi e 100 milioni, speriamo che le cifre non abbiano a lievitare. Non è vero che sono tutti fondi privati, in project financing, perché il 40% è a carico dello Stato, 2 miliardi e mezzo. La conclusione, lo ricordo, dovrebbe essere nel 2016. Quando dovrebbe essere approvato il progetto definitivo? Perché voi adesso state facendo un'operazione preliminare, no? Sì, il progetto definitivo lo stiamo redigendo, come previsto nel cronoprogramma. Sì. Sarà pronto a metà del prossimo anno. E questo ci consentirà di traguardare, di aprire i cantieri principali per la fine del 2010, inizio del 2011. Per quanto riguarda il finanziamento, se mi consente di puntualizzare, l'investimento è intorno ai 6 miliardi, 6 miliardi e 100, 6 miliardi e 300 milioni. Tutto l'investimento verrà recuperato attraverso i pedaggi che verranno incassati sulla gestione del ponte, pedaggi che sono equivalenti al costo attuale del traghettamento. Quindi anche le risorse che lo Stato sta investendo in questo momento verranno tutte rimborsate. Questo è un project finance, come si dice, ovviamente un project finance che tiene conto delle caratteristiche fuori misura, se posso dire così, del ponte sullo stretto, e quindi deve essere fatto con attenzione sartoriale. Anche qui i messaggi che arrivano al 349-238-6666, non è vero che non passeranno i treni, avrà 6 corsie stradali e 2 binari ferroviari, sarà lungo 3 chilometri e mezzo. E questa è una caratteristica importantissima, ecco. Sappiamo quanto è importante sviluppare il traffico ferroviario, riequilibrare il traffico tra la cosiddetta gomma, la strada e la ferrovia. Questo ponte è un ponte stradale e ferroviario. Allora, due domande che devo farle anche perché arrivano. Lei parlava di interferenze in senso, diciamo, ingegneristico, per cui bisogna spostare i binari da là dove devono crescere e devono essere fatti fare i piloni. Molti ascoltatori sono preoccupati di un altro tipo di interferenza, quella mafiosa. Che garanzie ci può dare? Ma guardi, la garanzia principale è quella del nostro impegno, dell'impegno della società, dell'impegno per cui stiamo collaborando da mesi, direi da anni ormai, e continuiamo a collaborare con le autorità competenti. E una considerazione anche di carattere generale, forse anche due. La prima è che tutte le grandi opere, quando movimentano delle enormi capitali, rischiano, no? Sono esposte al rischio di un'infiltrazione, possibile infiltrazione, certo, da parte della criminalità organizzata, non soltanto in Calabria, non soltanto in Sicilia. E quindi vanno difese. Quest'opera ha anche delle caratteristiche proprie, cioè si difende anche un po' da sola, perché, se posso dirlo così, perché è un'opera di grande specializzazione, è un'opera che richiede appunto imprese specializzate, che ne esistono poche al mondo in grado di realizzare il ponte, le torri, i cavi, i sistemi di sospensione e quant'altro. Questo evidentemente è già una prima forma di difesa. Poi è un'opera, 6 miliardi, ma sono 6 miliardi di investimenti concentrati in uno spazio molto piccolo. e quindi più facilmente controllabile, che sarà continuamente sotto i riflettori della pubblica opinione, proprio per la straordinarietà dell'opera. E queste sono altre forme di difesa proprio. A questo si aggiungono evidentemente le attenzioni speciali, i protocolli di legalità che abbiamo già studiato con i prefetti competenti, il controllo dei flussi finanziari, quindi di tutti i soldi che vengono erogati, no? Sia verso le principali imprese, sia per i subappalti, fino all'ultima impresa piccola coinvolta, magari in un movimento di terra. Indubbiamente abbiamo già parlato, insomma, avere un'opera così concentrata e così ampia può essere un vantaggio. Io non parlavo di infiltrazione mafiosa, ci mancherebbe. In generale, purtroppo, in questo paese veniamo da una storia, penso all'alta velocità sulla Torino-Milano, lì non, da quello che sa, non c'entra proprio nulla la mafia, da una storia in cui il costo preventivato poi triplica, quadrupla, insomma, per vari interessi. Mi faccia essere buono oggi, visto che siamo sotto Natale. In una battuta, perché siamo in conclusione, mi sto legato Ciucci, e scrivono altri ascoltatori: se però poi da Messina a Palermo non viene rafforzata la linea ferroviaria, poco servirà il ponte. Ma questo è un vecchio dibattito, è chiaro che il ponte deve far parte di un sistema di infrastrutture, sia stradali, la Salerno-Reggio Calabria la stiamo migliorando, la stiamo completando, no? E il ponte è l'ultimo macro lotto della Salerno-Reggio Calabria, anche la ferrovia, perché come dicevamo prima è un ponte anche ferroviario, però vuol dire che il ponte proprio per la sua realizzazione sarà l'elemento di riferimento, quello che trascinerà le altre opere, che costringerà anche gli altri soggetti e gli altri operatori ad adeguare la loro rete infrastrutturale. Quindi molto spesso lei sa che le cose avvengono anche per un effetto di emulazione e di sfida, e tutti vorranno essere puntuali all'appuntamento al 1 gennaio 2017, quando si aprirà il ponte con tutti i collegamenti necessari. Allora, buon Natale anche a Pietro Ciucci, amministratore legato della città ponte sullo stato di Messina. In bocca al lupo a tutti gli operai. Buon Natale a tutti voi. Impegnati, non vi preoccupate, lo dico agli ascoltatori, torneremo sul tema del ponte, ci mancherebbe per ora. Buona serata, domani puntata speciale di Focus Economia, chi può non se la perda, dedicata all'Africa, agli investimenti italiani in Africa e ai cinesi che stanno comprando pezzi di Africa intera. A tutti coloro che non potranno seguirla, da Sebastiano Barisoni un augurio di buon Natale, anche a Barbara Bianchi, Mauro Del Corno e Gaia Romani per l'assistenza in redazione, Filippo Reggi in regia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.